Quindi questa mattina nella messa abbiamo letto nella prima lettura un testo molto bello e molto commovente, forse, ecco, siete anche voi dello stesso parere, dal libro di Neemia. È un episodio veramente sorprendente, anche molto commovente, no? Perché dice così, no? Ve lo richiamo. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Vedete? È sorprendente che c'è il popolo di Dio che come un sol uomo, cioè c'è un'unità del popolo impressionante, e loro sono tornati dall'esilio, c'è il tempio ricostruito, e poi è il popolo che dice ad Esdra: porta il libro della legge di Mosè, la Torah, che il Signore aveva dato a Israele. Adesso, alcuni autori ritengono che, perché questo non si deduce dalla Bibbia, ma che forse lo avevano ritrovato dopo moltissimi anni, o forse addirittura per la prima volta il popolo veniva a conoscere questo libro, no? Allora, evidentemente i libri erano rotoli, quindi il popolo non aveva portata di mano. Quindi ascoltare per la prima volta, voi pensate, questo popolo che aveva avuto, insomma, secoli di esilio, e ascoltare per la prima volta la parola di Dio, ecco, attraverso i libri, ecco, del Pentateuco. Insomma. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge, che vuol dire questi libri, davanti all'assemblea degli uomini e delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Forse intende proprio, chissà, anche i bambini appena potessero capire qualcosa, no? Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno. Pensate, una lettura, no? A lungo, e solenne probabilmente, no? In presenza degli uomini e delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge, lo dice al singolare, no? Come un solo uomo, tutti uniti che ascoltavano quello che Dio diceva loro, no? Attraverso la scrittura. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. È un brano anche che è molto immaginifico, sì, ci immaginiamo la scena. Esdra aprì il libro in presenza, sembra uno sceneggiatore di Hollywood, no? Quello che ha scritto questo libro. Aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi, no? L'atteggiamento di ascolto della parola di Dio in piedi, no? Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono, alzare le mani in segno di preghiera, no? Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Vedete anche com'è impressionante questo vedere Dio nella sua parola, eh? Questa fede nel fatto che la parola di Dio è stata rivelata da Dio. I Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi, quindi c'è anche un lavoro di spiegazione, di esegesi, possiamo dire così, no? Di catechesi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura. Pensate, qui diceva prima, c'è cioè, tutta una metà giornata, dall'alba a mezzogiorno, quindi è proprio un ritiro, diciamo, spirituale di tutto il popolo, un momento molto importante, no? Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e E i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Un'interpretazione è proprio quella che è così forte questa esperienza che commuove. Forse c'era dentro a questo pianto anche la consapevolezza che c'era stata tutta questa lontananza da Gerusalemme, dal Tempio, dalla loro terra promessa nell'esilio, quindi che avevano scontato come pena per i loro peccati. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Allora è molto bello vedere il senso della festa che ancora oggi noi viviamo. È la gioia per quello che il Signore ci sta donando, per quello che il Signore ci sta dicendo, e che deve portare, anche se è così forte la percezione della vicinanza di Dio che ci può venire la commozione, però ci viene consigliato anche a noi di fate festa, no? Mangiate carni grasse, bevete vini dolci. E poi c'è sempre anche l'aspetto dell'aiuto dei poveri, cioè questa gioia che noi abbiamo la dobbiamo anche diffondere, no? Cioè a chi non ce l'ha, come si dice a volte nelle benedizioni dei pasti, ti benediciamo Signore per questi doni, danne a chi non ne ha. E poi i sacerdoti dicono: mantienici nel tuo santo servizio. E quando si trovano insieme, anticamente si diceva così. Allora, la gioia del Signore è la vostra forza, no? Questa è una delle formule che si possono dire nel congedo dopo la messa, no? Anche se si dice, pare, sia la nostra forza, no? La gioia del Signore. Ma è molto bello, è bellissima questa parola di Dio, cioè, e fra l'altro è bello vedere che è la Bibbia che parla della Bibbia, eh? Non è l'unico caso. È un caso importante e bello, no? La Bibbia che parla di se stessa, della parola ispirata in quanto ispirata e del bene che fa leggerla e ascoltarla. E qui dà per scontato che il Signore ha gioia, no? E la Bibbia, la parola di Dio, dà gioia. Il fatto di averla riscoperta, di averla ascoltata, ci deve dare gioia. E questa gioia del Signore è la nostra forza. Cioè, tu, Signore, sei contento. Sei contento sempre. Sei infinitamente pieno di gioia. E questa è la mia forza. Io mi appoggio sulla tua gioia. I Leviti calmavano tutto, evidentemente l'emozione è così forte che avevano bisogno di essere calmati. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Evidentemente sappiamo che il pianto ha sempre questa ambivalenza, no? Uno piange e dice: come sei triste? Invece a volte piange per la commozione, per la forza delle emozioni che cercano di venire fuori in qualche modo, no? Tutto il popolo andò a mangiare e bere, quindi hanno obbedito, alla parola di Dio, cioè hanno obbedito ai sacerdoti, ai Leviti, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Ecco, io penso che questo brano che abbiamo letto nella messa di oggi ci aiuta a contemplare un po' una dimensione della nostra vita cristiana, una dimensione della Chiesa, la Chiesa come ecclesia, cioè assemblea di coloro che sono stati chiamati, come contemplare un po' il noi con cui noi parliamo a Dio, Padre nostro, diciamo sempre. Siamo invitati da Gesù a dire, perché lui dice Padre mio e Padre vostro, dice Gesù, cioè mio perché la sua filiazione in qualche modo è unica, anzi è unica, è figlio unico, però noi partecipiamo della sua filiazione divina, però ciascuno di noi personalmente, ma di fatto anche collettivamente, quindi come chiesa, come comunità, come popolo, noi diciamo anche come famiglia, anche la chiesa si chiama così, famiglia, quindi noi. E questa dimensione, noi nell'Opus Dei anche ci piace questa dimensione di famiglia e la viviamo con gioia e che ha, come dire, un'analogia con la famiglia creata da Dio e fondata sull'amore matrimoniale tra uomo e donna e che è la cellula della società, che sappiamo fin dall'inizio, no? Nasce proprio con la creazione dell'uomo. La Chiesa ha un'analogia con questa famiglia, poi con la Trinità, con la famiglia della Trinità. E però è anche vero che, appunto, quando noi pensiamo all'Opus Dei come famiglia, pensiamo alle famiglie fondate sul matrimonio come analogia, poi dobbiamo pensare alla Chiesa, che è famiglia come questa porzione della Chiesa che è l'Opus Dei. Famiglia dei figli di Dio, famiglia dei chiamati, famiglia di coloro che hanno la stessa vocazione. E è molto bello considerare noi questa dimensione, come dire, familiare comunitaria della Chiesa, il noi, direbbe il teologo Ratzinger, no? Ci ha scritto delle pagine molto belle su questa dimensione. Allora, è vero che nell'Opus Dei abbiamo, perché una parte importante dello spirito che abbiamo ricevuto è una parte importante del cristianesimo, della realtà delle cose, abbiamo sottolineato sempre molto la responsabilità personale, la persona che, ecco, sta sparsa nel mondo, dove la vita lo porta, dove la storia l'ha messa, dove la sua libertà ha scelto di lavorare, di vivere. E lì c'è tutta la dimensione appunto della sua essere figlio di Dio che diffonde attraverso il suo essere un altro Cristo, ecco, la presenza di Gesù nel mondo. Però c'è sempre sullo sfondo, e a volte ci conviene mettere in evidenza questa dimensione comunitaria, no? Della Chiesa e quindi anche dell'opera. Non può essere altrimenti, no? E quando nel Vangelo noi leggevamo Vangelo secondo Luca, quel brano che è opportunamente, secondo me, messo accanto a questo brano del libro di Neemia, no? Luca che manda, scusate, Gesù che manda i 72 discepoli, no? A due a due. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. E diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Vedete com'è partecipativo Dio? La Trinità di Dio già in sé è partecipativa perché sono in tre, no? Pur essendo uno, è il modello di qualunque equipe di lavoro, eh? E allora, però è partecipativo nella missione, cioè, perché i discepoli potevano dire: ma scusami Gesù, tu sei Dio, io ti. E fai tu, se ti mancano operai, fai uno schiocco di dita e chiamali. Invece, e l'apostolato stesso è tutta una partecipazione alla redenzione di Dio, no? Quindi Dio, tu Signore, sei inclusivo al massimo. Non, puoi fare qualunque cosa senza di noi, però non vuoi fare, cioè fai tantissime cose anche senza che noi ce ne accorgiamo, però vuoi fare il più possibile delle cose attraverso di noi, ci chiami a stare dentro al tuo cuore, a partecipare alla tua passione, alla tua risurrezione, alla tua gloria. In questo caso ci chiami a partecipare addirittura, ecco, all'opera della redenzione, alla chiamata degli operai che sono pochi. Pregate dunque, Signore della Messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entrate, dite prima pace a questa casa. Gli date le istruzioni collettive. Sono in 72 che ascoltano Gesù, e penso, e anche di più, e non sappiamo bene che cosa, cioè com'era la scena. Invece i Vangeli sono molto più essenziali del Testamento antico, e a volte non ci danno appunto il contorno e gli elementi. Però possiamo immaginarci, non sappiamo come è successo, ma che se dice a loro, dice a 72, poi ci sono anche i 12, poi ci sono tutte le donne che lui ha chiamato a seguirlo e che lo servivano. Tanti che ascoltano Gesù. E alle volte Gesù, noi vediamo che ci sono altri brani del Vangelo in cui vediamo, in questo no, perché sono tutte le istruzioni, e poi dopo tornano, no? E allora dicono che cosa hanno sperimentato, a partire dall'esperienza. Dicevo, ci sono altri brani in cui si vede che interagiscono con le domande. E Gesù molto spesso domanda. Sapete che 2 anni fa il corso di esercizi quaresimali al Papa l'hanno fatto Hermes Ronchi, sulle nude domande del Vangelo, su 8 domande, ha fatto le meditazioni, no? Mi pare che siano 8, ma sulle domande di Gesù. Ma a volte siamo noi che domandiamo, e così interagiamo nel dialogo con lui, no? Pensate a tutto il racconto dell'ultima cena di San Giovanni, no? Del Vangelo di San Giovanni. Lì è un momento comunitario, un momento di famiglia, un momento di chiesa, in cui Gesù dice tante cose, però loro interagiscono, domandano, Signore, chi è che ti tradisce? Signore, perché non ci mostri il Padre e ci basta? Signore, perché hai deciso questa metodologia di lavoro, di non presentarti tu a tutti, ma solo a noi? E allora lui gli spiega. Attraverso di voi mi farò conoscere, stando dentro a ciascuno di voi con il Padre e con lo Spirito Santo. E quindi sicuramente anche con Gesù c'è stata questa, nei Vangeli vediamo questo dialogo. Certo, molto spesso le domande sono per capire di più del mistero di Gesù, altre volte sono operative, no? Sono operative, esecutive, no? Come facciamo a dare da mangiare a tutta sta gente? Abbiamo qui solo un bambino con 2 pani e 5 pani e 2 pesci. Fateli sedere in gruppi di 50, dice Gesù. Ecco, e poi distribuite. Lui benedice, ringrazia Dio e distribuisce. E mi veniva da pensare che effettivamente questa dimensione familiare, a livello di vita, degli affetti, comunitaria, di equipe, no? Di partecipazione della Chiesa è molto evangelica, no? È molto evangelica. Se negli Atti degli Apostoli, voi li conoscete bene, forse basta solo che io li ricordi. Ci sono alcuni episodi molto suggestivi di questa comunitarietà della Chiesa, di questa partecipazione, no? Pensate a quando addirittura proprio tu Gesù sei appena salito al cielo, cioè sono i primi giorni senza la tua presenza, i primi giorni, e che cosa fa Pietro? Non è che decide da solo le cose e neanche si raduna solo con Giacomo e Giovanni, per dire, no? Ma invece lì sono tutti e 12, poi c'è anche le donne e Maria, nel cenacolo al piano superiore, sono circa 120 persone radunate, dice il libro degli Atti, e Pietro parla a tutti e gli propone un argomento di discussione e un problema da risolvere. Dobbiamo essere 12 come apostoli del Signore, perché sono le 12 tribù di Israele. E Giuda, sappiamo che fine ha fatto. Chi mettiamo al posto di Giuda? E gli dà alcuni elementi per la scelta. Dice, bisogna che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Quindi, fra l'altro, questo vuol dire che altro che 12, c'erano molti altri. Ne proposero due. Non sappiamo che metodo hanno usato per proporre questi due. Votazioni? Primarie? Non sappiamo, no? Cosa hanno fatto? Alzata di mano? Non sappiamo. Qualunque metodo è buono, possono cambiare i metodi, no? Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Quando ho letto queste parole mi sono tornate in mente quelle cose divertenti che ha detto l'arcivescovo Mario Delpini quando è stato nominato. Ha detto: noi qui a Milano abbiamo avuto vescovi con nomi altisonanti, no? Carlo Maria, Ildefonso, no? Angelo, Dionigi, adesso invece c'è solo Mario. E qui effettivamente Mattia non ha soprannomi e alla fine viene scelto lui. Questo il metodo lo conosciamo, è un metodo che poi penso che non sia stato usato tante altre volte, e tira una sorte. Però tutti quanti hanno scelto quei due. Forse erano arrivati, che so, pari merito, non lo so. Una volta nelle partite di calcio si faceva la monetina, non c'erano i rigori, no? Quando si arrivava pari, alla fine si faceva la monetina e vinceva chi aveva scelto testa o croce, l'arbitro tirava la moneta. Oppure vi ricordate quando un altro episodio interessante di governo collegiale, possiamo dire governo partecipativo, non so come chiamarlo, Pietro che si trova presso il pagano Cornelio e riceve delle critiche. Io penso che chi sta a capo di un governo, anche nella Chiesa, è inevitabile che riceva critiche, riceviamo un po' tutti, ma chi sta a capo di più. E quindi Pietro non è solo del Papa attuale, del Papa precedente, di tutti i papi che abbiamo conosciuto nella nostra vita e nella storia, ma comincia Pietro ad essere criticato. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano, dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Cosa ti è venuto in mente? Pietro, papa, no? Ma che fai? La parola di Dio, pensavano loro, è solo per i circoncisi, solo per quelli che avevano avuto la fede, insomma, ebraica. E allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine, dicendo come recupera questa critica, la recupera spiegando, raccontando anche i fatti e aprendo il cuore. Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Non ha timore di parlare di estasi e di visioni. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia calata per i quattro capi e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai, vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili, uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: coraggio, Pietro, uccidi e mangia. E io dissi: non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca. Vedete come, no? La mentalità precedente blocca. A volte dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti nel confronto fraterno, nello studio, anche delle scienze umane e nell'apprendimento, nel dare molto valore anche a quello che dicono gli altri, nell'essere aperti allo Spirito Santo che ci aiuta a cambiare mentalità, che appunto anche noi superiamo mentalità precedenti che ci frenano e capire quello che vuole il Signore. Non sia mai, non è, ecco, nessun cibo impuro è mai entrato nella mia bocca. Nuovamente la voce dal cielo riprese: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per 3 volte, poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. E poi racconta come in quella casa, dopo aver avuto questa visione, tre uomini arrivano, entrano e lo chiamano, no? Mandati da Cesarea vengono a cercarmi. Lo spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Guardate com'è bello, no? Che sono sensibili allo Spirito Santo, che aiuta a cambiare programma, a mettersi in marcia, a uscire dalla propria casa. E quindi vennero con me anche questi sei fratelli, entrammo in casa di quell'uomo, quindi pensate Pietro con altri sei, non da solo, eh. Anche questa è la chiesa. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Giaffa, fa venire Simone, detto Pietro, egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Qui non ci dice da che cosa vede che lo Spirito Santo è disceso su di loro, ma evidentemente era una cosa palese, no? E si vedeva negli occhi, in quello che dicevano, nella loro gioia, non lo so. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Vedete come lo Spirito Santo aiuta a ricordare le cose di Gesù e a capirle. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo, e si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Bravo Pietro, eh? Al master della Bocconi in comunicazione potresti prendere un ottimo voto, ma soprattutto sei relazionale e soprattutto hai superato quella difficoltà raccontando quello che lo Spirito Santo ha fatto, quello che Dio ha fatto in te e in loro. Gli hai raccontato le vicende della Chiesa e loro si sono calmati, hanno cominciato a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. E così questo metodo continua, no? Pensate al concilio, al primo concilio, quello di Gerusalemme. E c'era sempre questo, un po' questo problema, no? Alcuni dicevano: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Paolo e Barnaba dissentivano, discutevano animatamente. Allora fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. E quindi sono ricevuti dalla Chiesa. Loro raccontano le cose grandi che Dio ha fatto per mezzo loro, e anche se in quel momento si alzano alcuni della setta dei farisei, diventati credenti cristiani, e dicono: no, è necessario circoncidergli, ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli si uniscono per esaminare questo problema. C'è una grande discussione, Pietro si alza e parla, e poi prende la parola Barnaba, prende la parola Paolo, poi prende la parola Giacomo, è il capitolo quindicesimo degli Atti degli Apostoli, se volete potete andarlo a rileggere, e alla fine decidono, risolvono la questione, che non è, danno ragione a Paolo e Barnaba, poi per dare un contentino dicono: vabbè, che si astengano dagli animali soffocati dal sangue, no? Astenersi dalla continuazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, e così scrivono una lettera, la prima enciclica, possiamo dire così, a tutte le chiese. Allora è bello vedere che se noi, quando noi ci riuniamo per parlare di cosa? Della nostra vita, della vita della nostra casa, della vita della nostra famiglia, della vita di questa piccola parte della Chiesa, con tutte le persone che ne fanno parte, siamo nel solco della tradizione evangelica, addirittura dell'Antico Testamento, no? Poi ovviamente con con variazioni e con migliorie, no? E siamo nella linea del far parlare lo Spirito Santo, sapendo che lo Spirito Santo parla, no? nella Chiesa. Poi c'è sempre chi sta a capo che ha il compito di dirimere, poi di prendere le decisioni. Se volete, vi ricordo che nella Novo Millennio Neunte, il Papa del 2001, appena iniziato il secolo del 2000, il Papa, il 6 gennaio, no? Proprio all'inizio, e ha scritto un paragrafo: una spiritualità di comunione, fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. Siamo anche nel solco di questo magistero, e ovviamente siamo nel solco di quello che fa il Papa Francesco, che chiama vari sinodi per ascoltare la voce della Chiesa e chiama gruppi di cardinali per ragionare con loro e ascolta molto le persone, insomma. E poi nell'Evangelii Gaudium però ci fa anche capire che questo lavoro di comunione, di comunità, può avere dei pericoli, no? E quel capitolo sulle tentazioni degli operatori pastorali che conosciamo e che possiamo, se vogliamo, anche rivedere, perché dice, ecco, anche questo lavoro di comunione può avere i suoi momenti di difficoltà. Però io penso che Maria, che ha ascoltato l'esperienza della prima Chiesa, che ha aiutato gli apostoli a parlarsi serenamente, a dirsi le cose vere, con pace, con vera stima reciproca, con ascolto autentico, e che era lì che presiedeva in qualche modo a quel primo incontro, quando Gesù era salito al cielo, ha reso presente Gesù, e può anche presiedere tutti i nostri incontri e aiutarci a viverle con gioia, con la gioia del Signore che è la nostra forza.